Cagliari, vedremo se sarà finale tutta italiana. Intanto Musetti ha vinto, Carderi ha perso il primo set 6-3 contro l'argentino Napone, che dunque si mette in vantaggio in questo confronto. Mentre per quel che riguarda la panoramica per il calcio internazionale, in Inghilterra stanno per andare in archivio le tre gare che erano iniziate alle 16, nello specifico Fulham-Brentford 0-0, Burnley-Newcastle 1-4, Sheffield-Nottingham 1-3, risultati che più che altro per l'alta classifica non modifica in matematica, per cui si mette alla sicuro la quindi le altre squadre che andranno in Champions saranno Burnley, Newton o Nottingham. Due di queste tre accompagneranno lo Sheffield dal piano inferiore, da cui salgono il Leicester e l'Ipswich, playoff anche quello abbastanza corposo da giocare dalla Championship per salire in Premier League. Tra un istante andiamo da Filippo Goffa, come detto, per quel che riguarda la Formula 1. Doppio appuntamento oggi, perché adesso c'è la sprint race alle 22, le qualifiche per la gara di domani che sarà sempre alle 22, esatto. Orario spostato decisamente in avanti, ma noi siamo insieme. Sul 70, a 75, sul 23 dovresti provare. No, qua, perché io devo poi sul canale, aspetta. Sto regolando qua. Forse anche l'alternata ha preso. Se devi farti la doccia, ci risentiamo. Faccio pure la culo, andate, se no sarò buruio. Ok, dai, ci sentiamo, ciao, stammi bene. Alle prossime. Ok, già, ciao.